L'Altra Europa è anche un programma di storie, storie in questo caso ai confini dell'Unione Europea, una storia bella, una storia intensa, una storia che parte da lontano, una storia anche drammatica perché il contorno, il contesto è anche quello del terremoto, il terremoto che a fine ottobre ha devastato la Turchia, ha devastato la Turchia orientale nei pressi della città di Van. Ne abbiamo parlato, abbiamo seguito gli eventi di quello che è accaduto, poi sapete come funziona anche la comunicazione, no? Un po' ci si perde, là il dramma continua perché la ricostruzione è solo all'inizio, ma è veramente disastrata. In quel contesto c'è anche una famiglia italiana che da diversi anni ha deciso di vivere nella zona, si occupa di rifugiati politici, erano presenti durante il terremoto, quindi hanno subito tutte le conseguenze del sisma, e sono molto contento di avere qua con noi, nel collegamento credo da Istanbul, Roberto Ugolini. Ciao Roberto, buongiorno. Ciao, buongiorno a te Federico, sono io e ho ascoltato la perfetta descrizione che hai fatto, diventa quasi inutile il collegamento perché hai detto tutto molto bene, in effetti. Roberto, voi eravate a Van durante il terremoto, adesso vi siete trasferiti a Istanbul invece perché non avete più la casa, se ho capito bene. Sì, dunque noi siamo rimasti per due o tre settimane ancora dopo il primo terremoto a Van, perché non ci sembrava giusto andare via nel momento della difficoltà, anche se in effetti difficoltà ce n'erano, perché purtroppo casa nostra, pur essendo rimasta in piedi, però è stata dichiarata inagibile e lo è tuttora. Siamo andati allora poi ad abitare per un po' di tempo nell'albergo di nostri amici, che però nel momento del secondo terremoto, perché ce ne sono stati due, uno era il 23 di ottobre e l'altro il 9 di novembre, e dopo il secondo terremoto è stato dichiarato inagibile anche quello. Poi, non avendo una tenda, non avendo niente, è stato un pochino più difficile, quindi siamo rimasti ancora, ma poi abbiamo preso la via dell'esodo lento, anche perché poi, come dicevi prima te, la nostra convivenza, la nostra presenza lì a Van è fatta anche di molte relazioni con le persone del luogo e anche con quelle non del luogo, che sono queste persone che scappano dall'Afghanistan per il problema dei talebani o per altri motivi, o dall'Iran, e quindi queste persone in seguito al terremoto sono state mandate in altre città, perché la situazione era insostenibile non solo per i locali ma anche per queste persone, profughi, rifugiati. E quindi piano piano, siccome siamo ovviamente in collegamento telefonico con loro, siamo andati a ricercarli nelle città dove sono stati mandati. Sì. Piano piano siamo spostati lentamente cercandoli nelle varie città, trovandoli, poi fino ad arrivare adesso fino a Istanbul, da dove partiremo la prossima settimana per rientrare un po' in Italia, prima di tutto per Natale, ma poi anche per fare un po' di mente locale, per capire un pochino come ricominciare, perché la casa evidentemente ancora non c'è e non si sa quando, perché purtroppo, ecco, questo è un altro dei problemi del terremoto di Van, le scosse continuano, le scosse di assestamento, e non solo scosse di assestamento, ma quelli che sono dichiarati anche come veri e propri terremoti a sé stanti, cioè separati evidentemente dalle scosse di assestamento. Di conseguenza niente è possibile ricominciare per mezzo, quindi anche un tentativo di controllo delle abitazioni per vedere se le fondamenta sono sane, perché arrivando a Van è strano, ma sembra che cioè, le case che sono rimaste in piedi sono lì, a un colpo d'occhio così superficiale sembra che non sia successo niente. Poi invece quando entri in città e guardi per bene ti rendi conto che mancano dei pezzi di muro, mancano delle finestre, mancano o dei negozi, cioè, ci sono tanti problemi. Però, e stiamo parlando, Roberto, di una situazione, di una, comunque una regione già particolarmente povera, giusto? Sì, quello sì. Purtroppo è una regione che è diciamo come fonte di sostentamento principale all'agricoltura, però agricoltura fatta di pecore, capre, e anche perché essendo a come minimo 1700 metri di altezza, che è dove c'è il lago, poi chiaramente da 1700 si arriva fino a 3-4000 metri, fino all'Ararat, che sono 5200, che è la montagna più alta della Turchia, e evidentemente, cioè, coltivare anche il grano in quelle regioni, in quella regione si può fare, ma è molto complicato. Poi è una terra che ha un'origine vulcanica, per cui è anche una terra ingrata sotto molti aspetti, perché è dura, cioè ci sono le pietre laviche di eruzioni di 100 anni fa o di quando sono state, per cui insomma i contadini cercano di rubare un po' di terra per poterla coltivare, ma sinceramente è difficile, ripeto, per l'altezza, come è difficile oggi per l'altezza vivere a Van, anche se in città, quindi a 1700 metri, perché la notte le temperature vanno a meno 12, meno 15, e non è certo semplice stare in una tenda con quelle temperature. Assolutamente. Ma Roberto, se insomma storicamente la Turchia è la porta verso l'Europa, la regione di Van è in particolare la porta per l'ingresso in Turchia, ma tu e la tua famiglia 11 anni fa come mai avete scelto di andare a vivere proprio lì? Ma perché noi dunque la prima volta che abbiamo conosciuto la Turchia è stato nel 1985 per vacanza, siamo andati in Turchia, così potevamo scegliere qualsiasi altra nazione, noi andiamo in Turchia e siamo andati in Turchia. Poi questa Turchia piano piano ha cominciato a entrarci nel cuore, e come a volte si dice c'è il mal d'Africa, a noi è subentrato il mal di Turchia. E l'abbiamo cominciato a conoscere perché durante le vacanze estive tornavamo in Turchia, dai oggi, dai domani l'altro, ci è venuto questo pensiero, questo desiderio di vivere la Turchia in maniera diversa, se non in senso lavorativo stretto, io lavoravo per un'industria farmaceutica, però poi abbiamo deciso di è arrivato un momento in cui dopo matura riflessione, dopo tante riflessioni, dopo tanto pensare, abbiamo deciso che per noi era arrivato il momento di partire per la Turchia, e in maniera particolare ci piacevano queste regioni dell'est che sono umanamente molto molto intense, molto forti. È un po' forse quell'Italia che, vabbè, chi c'era l'ha conosciuta, del dopoguerra, chi non c'era, vabbè, si può immaginare dai film, a volte si vedono questi film di De Sica, assolutamente. Di chi ha fatto. È una realtà dove il rapporto umano è fortissimo, dove le persone sono ancora molto semplici, dove c'è possibilità di condividere. E insomma, chiaro, ognuno poi trova cerca di trovare la scarpa per il proprio piede, e noi abbiamo sentito che per noi c'era qualcosa di diverso in Turchia, c'era qualcosa che ci chiamava, e così abbiamo fatto questa scelta. Tra l'altro con grande privilegio di essere, noi siamo tre, marito, moglie e una figlia, di essere tutti e tre insieme, cosa non scontata, perché ovviamente nostra figlia poteva scegliere qualsiasi altra cosa, non è che assolutamente per forza venire in Turchia. E lavorate con i rifugiati, quindi comunque anche una situazione comunque anche quella umanamente, oltre che professionalmente, è intensa. Quella, guarda, è una delle esperienze più belle che si siano mai fatte in vita nostra, perché incontriamo delle persone che sono con delle storie di vita, vabbè, impressionanti, si possono usare tutti gli aggettivi che vuoi, tutti abbastanza insufficienti, perché sono storie particolari, e come tutte quelle poi di persone che devono lasciare la propria terra, devono lasciare anche le famiglie, perché non sempre tutti possono partire, quindi magari parte una famiglia, ma il resto, i genitori o altri, rimangono. A volte addirittura, cosa ancora più dura, vengono mandati soltanto i bambini per liberarli dal problema dei talebani. Bambini vuol dire bambini e bambine. Sì. Vengono mandati soltanto loro perché non ci sono i soldi per poter far partire la famiglia, e se ne vanno, cioè li mandano, però la famiglia si spezza a quel punto, perché i genitori rimangono magari in Afghanistan, i figli partono, e bambini anche piccoli, certo, e questo quindi, ovviamente situazioni, insomma, con tutto quello che può comportare, drammatiche. Poi appunto abbiamo imparato nostra figlia benissimo, noi ci stiamo arrangiando, il farsi, che poi è la lingua parlata prevalentemente dall'etnia più povera, perché in Afghanistan ci sono varie etnie, i Pashtun, che sarebbe dei talebani prevalentemente, e delle persone più importanti. Poi ci sono, cioè, il Dari, il Farsi, ecco. Il Farsi è quello che parlano l'etnia Hazara, che è quella delle persone più povere, che sono quelle che prevalentemente scappano poi dall'Afghanistan per questi problemi, perché molto spesso si parla della guerra in generale, la guerra, insomma, del problema dei talebani, però ci sono dei problemi più apparentemente più piccoli, ma invece molto grandi. E che fanno parte, fanno parte proprio della quotidianità, loro e vostra. Roberto, certo. Grazie davvero per la tua testimonianza. Vorrei indicare il link www.popoli.info, giornale online dove abbiamo trovato la vostra storia. Complimenti davvero a te, a tua moglie e a tua figlia per il lavoro che fate. No. Noi siamo molto contenti di quello che ci è dato di fare, per cui non siamo né bravi né eroici, siamo persone che hanno avuto la fortuna di poter fare questo e quindi lo facciamo con gioia, senza essere, ripeto, ma molto sinceramente, senza essere né eroi né bravi né niente. Lo facciamo e ci troviamo bene e siamo contenti. Comunque grazie a voi per questa possibilità.